Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera, buonasera a quanti ci ascoltano. Questa sera parliamo di due libri che trattano della condizione giovanile o quasi giovanile. Il primo libro è il rapporto della Fondazione Ambrosianeum Milano 2013 dedicato ai trentenni in cerca d'autore. Il secondo libro, di cui parleremo più avanti, è La condizione giovanile in Italia, rapporto giovani 2013 curato dall'Istituto Giuseppe Toniolo ed edito dal Mulino. Ma iniziamo dalla Fondazione Ambrosianeum, di cui abbiamo il presidente Marco Garzonio. Buonasera Garzonio. Buonasera a voi. Ecco Garzonio, Milano 2013, trentenni in cerca d'autore. In questo 2013 qual è il filo conduttore di questo rapporto, ricordando che quello del 2012 era dedicato alle generazioni che verranno, sono già qui, dedicato in particolar modo ai giovani. Adesso si parla di trentenni. Con che evoluzione, guardando a Milano, Milano che è una realtà peraltro emblematica della realtà italiana. Marco Garzonio. Sì, la considerazione che noi abbiamo perso una generazione, e cioè questa generazione tra i 30 e i 40 anni si è trovata improvvisamente senza fratelli maggiori che avessero un qualche tipo di autorevolezza, di riferimento, di considerazione per loro, e dall'altra parte quelli che dovrebbero venire dopo, i fratelli minori, chiamiamolo così, sono persone che hanno, lo confermano i dati di questi ultimissimi giorni dell'Istat, eccetera, hanno poche prospettive dal punto di vista occupazionale e dal punto di vista del contributo che possono dare allo sviluppo della società. Per cui ci troviamo di fronte a una situazione piuttosto drammatica, in cui un paese, poi possiamo dire specifico dell'Italia, ma comunque un paese va avanti se ha una classe dirigente, e solitamente la classe dirigente ha sì le persone mature, gli anziani come riferimento, come guida, eccetera, ma se il paese vuol crescere ha bisogno di gente 30-40 anni che ha già dell'esperienza, però ha voglia di innovare, ha voglia di sperimentare, ha voglia di dare dei contributi originali. E ecco, quindi è un po' il cane che si mangia la coda, la mancanza di questa generazione, o l'insufficienza di considerazione per questa generazione provoca effettivamente una delle crisi di questo paese. Ecco, Milano appunto, dicevamo, emblematica della realtà italiana, si parla di trentenni che possono essere attori dietro le quinte o nuova classe dirigente. Sì. Ovviamente si tratta forse di, ci sono entrambe le cose, magari anche divise, alcuni sono già classe dirigente perché sono riusciti a entrare nel mondo del lavoro, altri sono emarginati e magari si sentono giovani anche se sono trentenni e giustificano così questa loro condizione di perenne ricerca di lavoro o di perenne ricerca di educazione che poi debba portare al lavoro. Quindi non è una classe peraltro omogenea all'interno della realtà milanese e quindi italiana. Non è omogenea, però c'è un punto che lega tutto questo, e cioè la mancanza di verifica sul fatto che loro, per esempio, parliamo di lavoro, benissimo, che il loro lavoro serva a qualche cosa. Perché c'è tutto un meccanismo, che è un meccanismo molto frustrante, che è il meccanismo della stagnazione, il meccanismo che sta tenendo fermo questo paese, che rischia anche a chi ha delle idee, a chi ha la volontà di innovare, a chi ha la volontà di giocarsi in qualche modo, rischia poi di vedere i suoi sforzi, le sue spinte interne, di vederli completamente frustrati. E è proprio questo che unisce tutte queste figure diverse, unisce queste generazioni. C'è come quasi un meccanismo perverso che impedisce in qualche modo a chi pur ha delle possibilità di emergere, a chi ha delle delle doti, a chi ha anche delle determinazioni, di riuscire a metterle a frutto, e questo è veramente frustrante per questa generazione, ma lo è per l'intero paese. Ecco, in questa prospettiva Milano è veramente un caso emblematico, oppure si rispecchia, appunto diceva che è un po' dell'intero paese, rispecchia un po' le condizioni in cui si trova l'Italia nel suo questo complesso? Rispecchia, e questo infatti è un momento di debolezza di Milano. Milano, che è sempre stata emblematica, in qualche modo un passo avanti, eccetera, in questo momento è una città stanca, una città ripiegata, una città che fa fatica a trovare le sue la sua identità e le sue possibilità, come invece fino a pochi anni fa era. Cioè Milano in questo momento lo si vede dalla stessa fatica con cui si è riusciti a mandare avanti l'Expo, lo si vede dalla fatica con cui anche dal punto di vista politico, qual è la classe dirigente politica a Milano in questo momento? Chi in qualche modo ha degli attu possibili? Al Pirellone, la regione, che cosa sta dando da questo punto di vista? Il comune, in cui ci sono certo persone valide, esperienza, a cominciare dal sindaco di Pisapia, ma ci sono molti giovani che sono ancora, lo si vedono dagli atti amministrativi, dalla gestione, che sono ancora inesperti, cioè non hanno quel tipo di formazione, quel tipo di capacità di spinta che li fa poi essere, in passato li ha fatti essere, classe dirigente che poi magari addirittura faceva traino per il paese, capisci? Quindi da questo punto di vista Milano sta vivendo, a mio avviso, un momento di stanca. Eppure Milano è riuscita negli ultimi anni a passare, a trasformarsi da città industriale, industria pesante come era negli anni centrali del secolo scorso, a trasformarsi e diventare una città luogo di un'industria più leggera, della moda, della comunicazione, dell'editoria, dell'immagine, della pubblicità. Vediamo proprio la telecomunicazione, le vicende, esempio di Telecom e di altre società legate al settore. Vediamo tutta l'area intorno a Milano, che era un'area di piccole medie, no? Cioè, dal nostro punto di vista, io credo che Milano debba fare rapidamente un grande esame di coscienza per vedere che cosa effettivamente può fare, perché mi sembra quasi che a Milano si possa applicare il motto il già e non ancora, cioè non sa di non poter più essere la città di una volta, ma non sa ancora quale può essere, e all'interno di questa tenaglia non ha fatto quel lavoro che doveva essere un lavoro sacrosanto di autocritica per liberare delle energie. Ripeto, dal punto di vista politico è emblematico, dal punto di vista culturale, dal punto di vista di tutte le attività in tutti i settori in cui dei trentenni e dei quarantenni possono dare una spinta di innovazione. E speriamo allora che il rapporto 2014 su Milano della Fondazione Bolzano-Leon possa mettere sotto analisi un passo in avanti in questa realtà, in questa trasformazione. Questo è l'augurio che ci facciamo tutti. Grazie a Marco Garzogno, presidente della Fondazione Bolzano-Leon, di averci raccontato questo rapporto Milano 2013, trentenni in cerca d'autore, edito da Franco Angeli. Sono 256 pagine per 24 euro. E parliamo ancora dei giovani, parliamo presentando il libro La condizione giovanile in Italia, rapporto Giovani 2013 dell'Istituto Giuseppe Toniolo, edito dal Mulino. È un rapporto che si sta sviluppando, in questo volume è pubblicata la prima parte appunto di questa indagine che è svolta a livello nazionale sulla realtà giovanile, sulle condizioni in cui vivono i giovani, in cui si parla molto spesso per grandi aggregati, per i problemi dell'occupazione, per i problemi che hanno di fronte alla società. società, dover entrare nel mondo del lavoro, ma questo rapporto analizza anche i valori, la percezione, la capacità dei giovani di muoversi all'interno del sistema, di un sistema politico certamente complesso, di un sistema sociale, economico forse ancora più complesso. Quindi cercando di superare un po' quelli che sono i luoghi comuni con cui guardiamo la condizione giovanile, cercando di andare a fondo proprio con un'analisi di tipo sociologico di quelli che sono i cambiamenti che sono avvenuti e che stanno avvenendo all'interno del sistema giovanile. Leggiamo insieme una piccola parte dell'introduzione dedicata ai giovani e ai cambiamenti tecnologici. Gli under 30 sono la prima generazione pienamente nativa digitale. I dati dell'indagine evidenziano non solo una crescita esponenziale dell'informazione via web, ma anche come i giovani non si limitino solo a fruire passivamente delle notizie. Per essi risulta naturale interagire e commentare. Assegnano inoltre ai siti di informazione e ai giornali online livelli di affidabilità non inferiori, anzi leggermente superiori, ai giornali cartacei. Anche riguardo all'influenza sulla formazione della propria opinione politica, il mezzo più rilevante per i giovani risulta essere quello offerto tramite il web. Più basso viene percepito il ruolo nell'incentivare la partecipazione politica. Credono poco, in particolare, nella possibilità che grazie a questi nuovi strumenti sia in atto un rinnovamento della classe dirigente. La grande maggioranza, inoltre, si dice convinta che le decisioni vere, alla fine, continuino ancora a essere prodotte attraverso altri canali. È ben chiaro come i giovani siano scettici, soprattutto nel contesto italiano, rispetto alla possibilità che i nuovi linguaggi e la rete siano finora riusciti a diventare un mezzo di cambiamento vero e a far contare di più le nuove generazioni. Allora un cambiamento, il cambiamento che è di fronte, un cambiamento che è di tutta la società, ma che i giovani stanno vivendo con particolare apprensione, giustamente perché il cambiamento riguarda il loro futuro. E quindi i giovani rispecchiano poi, come si legge in questo rapporto, un po' le condizioni generali, la sfiducia verso le istituzioni, l'incapacità della politica di rispondere alle necessità della società, l'incapacità dell'economia di creare le condizioni perché si creino nuove imprese, perché si creino nuovi posti di lavoro, perché si possa ripetere la crescita del benessere che ha avuto negli anni scorsi. Quindi la condizione giovanile in Italia, rapporto Giovani 2013, realizzato dall'Istituto Giuseppe Toniolo, edito dal Mulino, costa 20 euro per 250 pagine. Grazie a quanti ci hanno ascoltato e hanno seguito i libri di questa serata. Ringrazio anche Fabio Cantadori in regia e Luca Cremonese in redazione. L'appuntamento con Economia in Pagine è per sabato prossimo.